ucciso con paura, col coraggio di saperlo che so di perderti. Sono qui, mentre vedo che vai via, non saluti. Quanto fa male vederti andare e sparire via da me. Io non ti trattengo, ma vai via. Non cercarmi, non guardarmi in questa periferia, in questo freddo d'inverno, senza noi. E spiegarlo al tempo e non ci sarai. Passeranno giorni e tu rimarrai un dolore, un ricordo, e sarai sempre nella mia vita a pensarti, a tormentarmi, perché sei la voglia di sognare che ogni giorno è dentro me. Storia di sesso e paura, ipocrisia, e brucerei con il sole ogni parte scritta di noi, vittime di tante scuse e bugie. Con te sapevo che andasse così, serve a niente maledirti, stare male per distruggermi, sì. Questa fotografia senza noi, e spiegarlo al tempo e non ci sarai. Passeranno giorni e tu rimarrai un dolore, un ricordo, e sarai sempre nella mia vita a pensarti, a tormentarmi, perché sei la voglia di sognare che ogni giorno è dentro me. Seguimi, io ti voglio, credimi. Se vado via ritornerò, rimani e ti cercherò col fiuto di mille cani. Ti scalderò il cuore di domani come quel ricordo qui tra le mie mani. Curerò il dolore che t'ho provocato, chiederò scusa alle emozioni che m'hanno rubato il tempo che t'ho dedicato in vano, senza farti capire che ti amo. Non maledirmi, voglio dirti che siamo solo una componente di dove andiamo, e spiegarlo adesso al tempo se non ci sarai. Passeranno giorni e circostanze, ma tu rimarrai in dolore, fermerai minuti e quello sarà eterno, perché senza te qui diventa un inferno.